Vita di San Francesco Antonio Fasani. Ecco, la vita di San Francesco Antonio Fasani, cari amici, è strettamente legata a quella della sua terra natale, a Lucera, una città pugliese che per la sua posizione strategica allora era chiamata la chiave del tavoliere delle Puglie. Proprio questa vasta pianura, ai tempi del nostro santo, era adibita soprattutto a pascoli invernali per le greggi. Era una città fiorente, anzi spesso eletta capitale amministrativa della Capitanata, che era il territorio che corrisponde praticamente oggi alla provincia di Foggia e comprendeva anche la parte settentrionale della Puglia. Il territorio allora era sotto i Borboni, sotto il Regno di Napoli. Ma in quegli anni, oltre ad una precaria situazione politica, la Puglia, questa terra pugliese del tardo 1600, dedita soprattutto alla pastorizia e all'attività agricola, fu spesso sconvolta anche da disastrosi terremoti, da carestie e pestilenze che, dobbiamo dire, misero a dura prova la laboriosità di questo popolo. E proprio da una famiglia popolana di Lucera nacque il nostro San Francesco Antonio, il 6 agosto 1681. Nasce in una piccola casa di umili e modesti lavoratori. Il papà si chiamava Giuseppe, la mamma Isabella. Dopo qualche giorno fu battezzato e gli vennero imposti i nomi di Donato, Antonio, Giovanni, Nicolò, ma fu subito chiamato da tutti Giovanniello. La sua, dicevamo, era una famiglia povera, povera sì, ma dedita alla preghiera, profondamente cristiana, e ci viene detto che si recitava il Santo Rosario in ginocchio dinanzi all'immagine dell'Immacolata. E quando Giovanniello era ancora piccolo, ebbe purtroppo la sua prima grande prova. Restò orfano, papà Giuseppe morì. La mamma Isabella allora, per assicurare un futuro dignitoso a lei, ma soprattutto al piccolo, si risposò con un brav'uomo, con Francesco Farinacci. Da questo matrimonio nacquero poi ancora due figli. Nel frattempo entrambi i coniugi, notando la docilità, l'intelligenza del nostro futuro San Francesco Antonio, decisero di impartirgli un'istruzione, permettendogli di frequentare il convento di San Francesco, sperando così di assicurargli un futuro migliore e risolvere in parte anche i problemi economici. Era una famiglia molto povera, che non tardarono a manifestarsi. E lui, da ragazzo, studiava con grande impegno, ma sapeva in cuor suo che purtroppo presto avrebbe deluso le aspettative dei familiari. Perché? Perché i genitori pensavano ad un suo cammino, diciamo, visto che stava studiando, ad una sua mansione magari importante all'interno del Regno di Napoli, della città. Ma lui, al contrario, invece nutriva nel suo cuore il desiderio grande, totale, di appartenere a Gesù. E prendendo il coraggio a due mani, parlò con i genitori e la decisione fu netta, era quella di entrare in convento. E così, con grande coraggio, ancora adolescente, il 23 agosto 1695, aveva 14 anni, entrò nel noviziato dei frati minori conventuali di Monte Sant'Angelo, prendendo il nome di Francesco Antonio, proprio in onore dei due grandi santi dell'ordine, a cui era molto devoto. Qui, il 23 agosto dell'anno dopo, fece la professione solenne con i voti di povertà, castità e obbedienza. Uscì quindi dal convento di Monte Sant'Angelo, gli diedero il permesso per un giorno di tornare a Lucera, nella casa dei suoi familiari, ma ripartì poi subito per Venafro, un'altra località, a completamento della sua formazione religiosa. Dopo gli studi a Venafro venne inviato poi a Napoli, dove fu ordinato suddiacono. Proprio durante uno di questi viaggi, nel 1696, incontrò per la prima volta un altro novizio, Antonio Lucci, che ritrovò poi l'anno dopo nel suo stesso corso di studi. Insomma, i due ragazzi divennero in futuro grandi amici e questo Lucci ebbe un'importanza fondamentale in un episodio che poi racconteremo. E rimasero legati con grande amicizia e con grande stima per tutta la vita. Anzi, entrambi chiesero al padre generale il permesso di essere inviati insieme ad Assisi per laurearsi e la richiesta fu accolta e partirono per il lungo viaggio. questo viaggio per Assisi non fu un viaggio, diciamo, scanzonato, tranquillo. Al contrario, fece loro comprendere la vera situazione economica e sociale che allora viveva il Regno di Napoli. In quel periodo, infatti, nel Mezzogiorno d'Italia, cominciò ad emergere una coscienza, possiamo dire, civile, organizzata anche politicamente, rinnovatrice, non sempre positiva, con una chiara posizione antispagnola, quindi contro i Borboni, e seguì a questo anche la rivolta, nota come la congiura di Macchia, che fallì. Insomma, c'era molta ribellione in quegli anni, e a situazione ormai compromessa il governo spagnolo tentò con la repressione di riportare l'ordine nel Regno di Napoli, mentre la crisi finanziaria diventava sempre più disastrosa. Quindi cosa faceva? Per apportare denaro alla cassa dello Stato erano praticamente diventate, le imposte e le gabelle erano talmente grandi che per la povera gente erano ormai intollerabili, non ce la facevano più, erano alla fame. Proprio questa era la situazione politica di cui ben presto entrambi i ragazzi si resero conto mentre arrivavano ad Assisi nel 1704. Nel frattempo, nel convento di Assisi, sotto la guida di un santo direttore spirituale e un servo di Dio, Giuseppe Marcheselli, furono ordinati sacerdoti. La data per loro fu memorabile, meravigliosa, era perché erano consacrati a Gesù, come era loro desiderio profondo, era il 19 settembre 1705. Dobbiamo però dire che in quel periodo il clero non godeva del prestigio culturale e sociale come negli anni precedenti, questo sia a causa dei nuovi fermenti politici che c'erano, ma anche del nuovo illuminismo e diciamo anche dei massoni, della massoneria che era presente, che praticamente tacciava le pratiche religiose come inutili superstizioni, cioè la famosa dea ragione, no? Se poi a questo aggiungiamo anche alcuni scandali in cui purtroppo alcuni prelati erano invischiati, abbiamo il quadro abbastanza chiaro della situazione. E proprio fu tra queste enormi difficoltà, in questo clima di grande diffidenza nei confronti dei religiosi, che il giorno dopo la sua consacrazione, Fra Francesco Antonio celebrò la sua prima Santa Messa proprio sulla tomba di San Francesco. Ma la gente che è attenta, perché poi capisce, comprese immediatamente, dopo alcune settimane, dopo qualche mese, lo zelo apostolico, possiamo dire la purezza e la cristallinità della vita di questo nuovo sacerdote, di questo giovane sacerdote, e soprattutto la passione con cui predicava, la fede, e non tardarono appunto ad attirare l'attenzione di tanti, che vedono in lui proprio la presenza di un nuovo Francesco d'Assisi. Passato nel frattempo a Roma per un breve periodo nel collegio di San Bonaventura, ritornò ancora ad Assisi nel 1707 e qui predicò il suo primo quaresimale presso Palazzo, un borgo di questa città. Un testimone riferì così, da questa testimonianza. Predicava con un fervore sensibile, in modo che imprimeva nell'anima degli ascoltatori le verità che annunciava. Parlava della Santa Madre di Dio con un tal trasporto di devozione, una tale tenerezza e un'espressione del volto talmente affettuosa che sembrava aver avuto un colloquio faccia a faccia con lei. È una delle cose più belle di questo santo. La devozione e l'amore per Maria Santissima era qualcosa che trascendeva ogni altra cosa. E qui cominciò ad essere amato dagli abitanti di Assisi e con loro grande rincrescimento. Nel luglio di quello stesso anno seppero che il nostro santo era destinato alla comunità di Lucera per insegnare filosofia ai giovani del convento, mentre Antonio Luci, il suo compagno di studi, più tardi sarà eletto ministro provinciale dell'ordine proprio nella provincia di Monte Sant'Angelo. Ma ritorniamo al nostro San Francesco Antonio, che arrivò a Lucera, la sua città natale, era il 1707, e fu accolto con grande gioia dai confratelli del convento. Anche qui, come già ad Assisi, manifestò il suo ardore, lo zelo apostolico, con una vita fatta di esempi, non soltanto di parole, una vita di penitenza, di povertà, di amore, di disponibilità verso gli altri, e anche qui veniva considerato un nuovo San Francesco, ma era un grande uomo di preghiera, profondamente illuminato nel cuore, ma anche un uomo concreto nelle opere. Infatti passò subito all'azione stilando, che cosa? La lista dei più poveri della città di Lucera. Voleva andare fino in fondo. Anzi, invitò i confratelli a fare penitenze, a fare rinunce, per aiutare non solo con le preghiere che erano fondamentali, ma con le opere ad aiutare questa povertà enorme di tanti che, disperati e affamati, si stringevano allora intorno al convento. E lui si va, come oggi, anche allora, si va dove? A cercare un aiuto? Nei conventi, nelle chiese. Ma quello che ci viene detto è che allora era una povertà sì materiale, ma anche spirituale. E il superiore del convento, colpito proprio dalla vita, dalla santità di questo giovane frate che si distingueva dagli altri, un giorno decise di presentarlo al vescovo di Lucera, Monsignor Domenico Morelli, perché gli concedesse, proprio perché aveva capito chi era, la facoltà di diventare confessore. Allora ci voleva questo permesso. Il vescovo però gradì la visita, ma vista la giovane età del nostro santo, aveva 27 anni, gli negò questo permesso, non glielo diede. Insomma, cari amici, sarà stata una coincidenza, ma quando i due frati si allontanarono, dopo alcune ore, il vescovo fu colto da improvvisi e gravi malori, tanto ci viene detto da temere per la sua vita. In quei momenti ripensò a quei frati. Cosa fece? Li fece richiamare in fretta, i due religiosi tornarono, e concesse al giovane Francesco Antonio la facoltà di confessare. Ora non sappiamo come, ma possiamo immaginarlo, le testimonianze ci dicono, e lo stesso vescovo ci dice, che il malore scomparve all'improvviso. Nel frattempo, due anni dopo, siamo nel giugno del 1709, il nostro santo, dopo aver superato altri esami, venne proclamato dottore e maestro, ed allora venne chiamato dai confratelli, anche da tutto il popolo, anzi, come viene chiamato ancora oggi familiarmente, il padre maestro. Sentiva, però, proprio per questa unione strettissima che aveva con Gesù, sentiva in quel periodo un desiderio fortissimo di solitudine, di pregare, per stare proprio solo con il suo Signore, per viverlo pienamente. Era un desiderio veramente ardente. Così quell'anno, per tre anni, si ritirò presso Alberona, dove fu superiore dell'eremo di San Rocco. Ma lui non lo sapeva, ma anche qui Gesù lo chiamava ad operare concretamente, e come aveva già fatto, con opere di carità verso gli ultimi. Infatti, proprio grazie al suo ministero, quindi comunque andava a visitare le persone, gli ammalati, che aveva bisogno di una parola buona e di confessarsi, proprio grazie al suo ministero, con dolore profondissimo, vide la condizione disperata, di grande miseria in cui vivevano molti dei bambini di quei posti. Allora cosa fece? Fece nascere una scuola per i ragazzi più poveri e per i più abbandonati di quei luoghi, perché potessero imparare qualcosa e poi inserirsi nella società. Era, da qui nasce anche l'affetto da parte di molte persone e come è già successo in precedenza, dopo questi tre anni di meraviglioso apostolato verso gli altri, verso i fratelli, ci fu grande dispiacere da parte della gente di quei paesi quando seppero nel 1712 che era stato nominato guardiano e maestro dei novizi e poi superiore nel convento di Lucera. Quindi anche lui con dispiacere dovette lasciare quel luogo e andare a Lucera. Diciamo che era confortato comunque dal fatto, il dispiacere era un po', diciamo, affievolito dal fatto che tornava nella sua città natale. E anche qui a Lucera il suo cuore si dilatò in modo grande per questi suoi fratelli, per la gente tantissima allora, povera, bisognosa. I ricchi erano pochi, e certo non si curavano dei poveri, almeno buona parte di essi. E allora cosa fece? Istituì una mensa per chi non aveva da mangiare, chiedendo aiuto e sostegno a chi? Alle famiglie nobili del tempo. E allargò questa sua meravigliosa opera di carità a tutta la regione, ma fino ad arrivare nel Molise. Quindi da Foggia andò a San Severo, a Manfredonia, ad Agnone, a Campobasso e a tanti altri paesi, meritandosi l'appellativo di apostolo di Capitanata, cioè di quella zona. E dicevamo, i fedeli erano profondamente legati a lui e lui vedevano proprio la santità di Gesù e in forte contrasto con le insidie che i nuovi illuministi di allora, anticlericali e illuministi, dicevamo, andavano fomentando tra la gente semplice. E iniziarono a fiorire anche racconti sul suo meraviglioso operato, che di borgo in borgo presto si sparsero per tutto il regno di Napoli. Era, dicevamo, un uomo di grande carità. Allora un giorno, di ritorno a Lucera, ovviamente andava a piedi facendo chilometri per andare magari a confessare o ad aiutare delle persone, ritornando al convento incontrò un mendicante che gli chiese qualche cosa per coprirsi. Padre Francesco Antonio si spogliò dei suoi vestiti e tornò in convento coperto del suo rosario. Ma come sappiamo bene, il nemico, il demonio, è sempre in agguato per combattere questa santità che porta, sappiamo, molte anime a Dio, e si serve purtroppo proprio dell'uomo per contrastarla e cercare di distruggerla. Infatti il modo di agire fecondo di carità e di passione verso i fratelli generò invidie e giudizi malevoli tra diversi persone che erano nemici della Chiesa, ma anche perché questo, cioè la vita che lui viveva e che era un esempio per tutti, era un rimprovero a tanti che vivevano allora nel disordine e nell'immoralità. Questo dava tremendamente fastidio. Ma la cosa che fece traboccare il vaso, la goccia che fece traboccare il vaso, avvenne in seguito ad una conversione incredibile di una signora, di una donna. Ci danno addirittura la data di questa conversione, era il febbraio del 1713, e questa donna si chiamava Diodata Pagano. Pensate che questa donna era lontanissima dalla Chiesa, quindi cioè era proprio una delle ultime che si sarebbe potuta convertire. Ebbene, grazie all'intercessione di questo santo, alla vicinanza di San Francesco Antonio a Diodata, questa donna si convertì, creando sconcerto in tantissime persone, addirittura dopo divenne suora. E allora le malignità di molti si fecero ancora più grandi dopo questa cosa, insomma fecero, visto che erano persone altolocate, fecero talmente tanto rumore da far allontanare da Lucera San Francesco Antonio, che nel 1716 fu trasferito in un altro convento. Ma qui intervenne l'amico Fra Antonio Lucci, che era allora, aveva una posizione importante, il suo ruolo era provinciale di tutta la zona, diciamo, della Puglia. Saputa la vicenda e conoscendo benissimo che era Francesco Antonio, lo incontrò, gli parlò, e lui proprio, Antonio Lucci, prese il coraggio a due mani, era deciso e andò a parlare col ministro generale spiegandogli cos'era successo. Il ministro generale capì benissimo, anche perché si sapeva chi era questo grande santo, e così concesse ancora a Fra Francesco Antonio nel 1717 di ritornare nel suo convento a Lucera. Tornò a Lucera, nella sua amata città, e non aveva un attimo di tempo per sé, perché si divideva tra i poveri, era quello il suo posto, tra i poveri della città, e fra le varie iniziative promosse l'usanza di raccogliere e distribuire i pacchi dono, soprattutto a chi naturalmente era ultimo abbandonato, in occasione del Santo Natale. Anzi, compilava un registro dei poveri, del dare e dell'avere, come se fosse una sorta di banchiere degli ultimi. Ma non solo questo, dava l'assistenza a molti carcerati, in particolare ai condannati a morte. Era qualcosa che lo feriva profondamente nel cuore. E lui stesso li accompagnava fino all'ultimo momento al luogo del supplizio, per confortarli in quei momenti, in quegli ultimi momenti. Oltre a questo, aiutava anche al monastero di Santa Caterina, a Lucera, come confessore delle suore di clausura. Ed era tale la stima, è vero che molti lo odiavano, ma moltissimi lo amavano, ed era tanta la stima di cui godeva, che il 1 giugno del 1720, con speciale breve di Papa Clemente XI, Fra Francesco Antonio venne nominato ministro provinciale della provincia religiosa di Monte Sant'Angelo, che, pensate, in quel tempo si estendeva fino al Molise. Succedeva così all'amico Fra Antonio Lucci, che venne inviato a Napoli come reggente generale e poi nel 1729 andrà a Bovino come vescovo addirittura. Ma tornando al nostro santo, spese tutto se stesso per aiutare la popolazione, non solo di Lucera, ma anche quella di Foggia, in modo particolare quando il terremoto colpì questa città nel 1731, molta gente aveva perso tutto e non si risparmiò per proteggere i più deboli e i più indifesi, che erano, diciamo, praticamente sotto il dominio di arroganti e di persone che spadroneggiavano, facevano quello che volevano. Pensate che qualche tempo dopo impedì ad un nobile, allora era una cosa incredibile mettersi contro un nobile, impedì ad un nobile di abusare di una giovane orfana di cui si era invaghito. Visto che questo nobile, tra virgolette, non riuscì nel suo intento, per vendicarsi contro San Francesco Antonio, cosa fece? Alimentò malignità sul suo conto. E visto che era altolocato, e quindi si fece sentire anche negli altri palazzi, il nostro santo, pensate, fu addirittura convocato a Roma dal Papa, da Papa Clemente XII. E lui andò davanti al Papa, ascoltò i rimproveri senza aggiungere parola e nell'andarsene baciò il piede e pose le mani sulle ginocchia di Clemente XII, che da anni soffriva di dolorosi attacchi di gotta. Il Papa si sorprese non poco quando sentì subito cessare ogni dolore nel momento in cui il nostro santo gli aveva poggiato le mani sulle ginocchia e comprese chiarissimamente chi era quell'uomo, chi era quel frate umilissimo che era inginocchiato lì davanti a lui. Allora lo fece alzare, lo benedisse e lo inviò ancora nella sua amata città di Lucera. E lui riprese così il suo apostolato, con passione, con forza, con fede, conformandosi sempre più all'immagine di Cristo. E in occasione delle festività della Vergine, o semplicemente durante le sue prediche, era sua abitudine distribuire, soprattutto ai bambini, le immaginette della Vergine Immacolata, sul retro delle quali era scritta o una pia raccomandazione, o una brevissima preghiera, o un pensiero alla Madre di Dio. E i frutti spirituali di questa pratica, possiamo dire semplicissima, furono molti. La Santa Vergine, ci viene detto, si degnò di compiere guarigioni miracolose che si producevano quando i malati pregavano davanti a questa immagine. Naturalmente non è magia, l'abbiamo detto molte volte, ma era la fede profonda di queste persone e l'intercessione di San Francesco Antonio. Pensate, ancora oggi è particolarmente venerata proprio nella chiesa di San Francesco a Lucera la bella statua dell'Immacolata che nel 1718 il nostro santo fece arrivare da Napoli. E proprio davanti a questa statua della Madonna, dell'Immacolata, lui era solito sostare in preghiera e più volte fu visto anche dai suoi confratelli in estasi nel contemplare la Beata Vergine Maria. Ed era, dicevamo, così grande l'amore che nutriva per la Madre di Dio, che fece dipingere l'immagine dell'Immacolata sulla porta della sua poverissima cella, nella quale in silenzio e contemplazione faceva penitenza. Faceva penitenza sempre, perché dormiva su un pagliericcio, vestiva con abiti vecchi, ruvidi e rattoppati, e il cibo che prendeva era scarso e insufficiente. E proprio, cari amici, questa sua unione profonda, grande con Gesù, lo portava ad ottenere da lui e dall'Immacolata Vergine Maria dei miracoli. E proprio fra gli eventi inspiegabili che caratterizzarono la sua vita vi è il miracolo della pioggia. Cosa succedeva allora? Che Lucera, come buona parte della Puglia, attraversava un periodo di grande siccità e i nobili coltivatori della città erano in crisi. Quindi erano questi nobili che avevano dei grandi appezzamenti di terreno, ma a causa della siccità non si produceva più nulla. Lui, proprio in quei giorni, passava nelle case proprio di questi nobili per chiedere l'elemosina per i poveri. E uno di questi nobili, il duca Orazio Zunica, e anche la moglie, gli fecero una proposta, quasi una provocazione, una sfida. Gli dissero, se lui avesse promesso la pioggia, loro avrebbero dato l'offerta. Il nostro santo, che aveva ben capito tutto, ma aveva bisogno di aiutare tante persone, accettò. Prese allora le elemosine che il duca gli diede e andò nella chiesa di San Francesco. Qui pregò per tutta la notte e il giorno seguente, come spesso accadeva, fu visto assorto in contemplazione davanti al tabernacolo e poi all'altare dell'Immacolata. Ma già durante la notte iniziò a piovere, pioggia abbondante che si protrasse per giorni, evitando così che la siccità rovinasse i raccolti. Un'altra volta, nel convento di Santa Caterina, le suore non potevano aiutare i poveri, quindi li allontanavano perché nel pozzo non c'era più acqua, sempre a causa della siccità. Il nostro santo intervenne e chiese ad una suora di attingere l'acqua al pozzo. Questa suora, insomma, era stupita dalla richiesta, non c'era acqua, però, visto che lui la invitava a fare quel gesto, calò questo mastello all'interno del pozzo per attingere acqua e venne su pieno d'acqua. Guardando sconcertata, vide che poi il pozzo era pieno d'acqua, mentre fino a qualche minuto prima era assolutamente vuoto. Ma un episodio analogo accadde anche proprio nello stesso convento di San Francesco, dove la cisterna era vuota sempre a causa della siccità. Purtroppo oggi abbiamo il problema contrario, cioè che c'è tanta pioggia e questo crea grandi problemi purtroppo al nostro territorio. Allora c'era questa siccità che praticamente svuotava le cisterne, svuotava i pozzi, non si poteva annaffiare nulla. E anche qui la cisterna vuota tornò ad essere di colma fino all'orlo. Proprio grazie a questi eventi inspiegabili e altri simili, che avvennero dopo la sua morte, San Francesco Antonio Fasani viene anche definito il santo della pioggia. Ancora oggi viene invocato per questi periodi di siccità. Ma intanto, nel maggio del 1742, fu un mese particolare quello, perché c'era il capitolo che si tenne a Campobasso. Aveva 61 anni, aveva dato tutta la sua vita, anche se abbiamo visto in breve, però a totale vantaggio dei fratelli, per amore di Gesù, e soprattutto a quante anime aveva salvato con il suo donarsi totalmente, con la sua carità, con una parola di speranza, di consolazione, no? Capiva che la fine era vicina e si congedò quindi dal capitolo, si congedò dai padri della provincia. E poi in seguito cominciò ad avvisare anche i frati e i devoti di quello che sarebbe accaduto da lì a poco, invitandoli a pregare per la sua anima. Nel frattempo, il 22 di novembre, venne chiamato ad assistere un moribondo e i frati gli dicevano di non andare, cioè era già malato, faceva freddo, ma lui nulla, incurante del freddo e del vento, andò, ma tornò al convento con una febbre altissima. Il giorno successivo, dopo aver confessato per alcune ore, barcollando crollò a terra. Il medico che lo visitò in cella non gli diede speranza, ma lui, sorprendendo tutti i presenti, sorrise e ringraziò il medico per la notizia che gli aveva appena dato. Così il 29 novembre del 1742, al tramonto, pensate, del primo giorno della novena dell'Immacolata, nella sua povera e umile cella, con l'immagine della Vergine, il crocifisso fra le mani, San Francesco Antonio Fasani morì a Lucera all'età di 61 anni. Tutta la città, tutta la città si riversò nella chiesa di San Francesco e per 3 giorni il suo corpo rimase esposto. Molti fedeli ne approfittarono anche per strappare dal feretro pezzi di stoffa, addirittura il crocifisso. Comunque, grazie a queste reliquie, dal giorno della sua morte negli anni successivi, molte furono le grazie e le guarigioni che i fedeli sostennero di ricevere da lui. Venne sepolto nella sua chiesa e, vista la fama di santità, 4 anni dopo il transito, fu aperto il processo di beatificazione. Furono ascoltate decine di testimoni. Primo fra tutti proprio il suo amico, il vescovo Monsignor Antonio Lucci, ma il processo diocesano fu più volte sospeso per poi trovare termine nel 1765. A causa poi dello scioglimento degli ordini religiosi, siamo già nel 1808, e dell'allontanamento dei frati da Lucera, tutto il materiale raccolto sull'allora servo di Dio giunse a Roma solo nel 1831. E molti anni dopo, nel giugno del 1891, Papa Leone XIII proclamò l'eroicità delle virtù, proclamando Francesco Antonio Fasani venerabile. Qui arriviamo a giugno del 1926, quando venne fatta la prima ricognizione delle sue spoglie e nel 1932 i frati minori conventuali tornarono definitivamente a Lucera. Proprio in quegli anni diversi furono le grazie particolari, i miracoli che i fedeli attribuirono al nostro santo, per esempio guarigioni prodigiose di malati ritenuti incurabili, 2 delle quali però hanno portato alla sua beatificazione da parte di Papa Pio XII, il 15 aprile 1951, e di cui vi parlo brevemente. Il primo miracolo è attribuito all'intercessione del nostro santo per Francesco Tozzi, che era un operaio di Lucera di 66 anni. Quest'uomo fu ricoverato nel luglio, siamo nel 1944, quindi stava per terminare la Seconda Guerra Mondiale, fu ricoverato nel luglio del 1944 per essere operato di tumore maligno. Nel pomeriggio però del 6 agosto, quindi 2 settimane dopo, le sue condizioni si aggravarono a tal punto che la mattina seguente il chirurgo era andato per constatarne il decesso. Quando il chirurgo entrò nella stanza, restò sconcertato perché l'uomo stava bene. Cos'era successo? Questo lo testimonia lo stesso Francesco Tozzi. Nella notte tra il 6 e il 7 agosto lui aveva pregato a lungo il nostro santo, che gli apparve, dice lui, verso le 3 di notte. Praticamente al mattino quest'uomo era guarito. Fecero degli esami, riverificarono 1, 2, 3 volte, dovettero arrendersi all'evidenza. Era guarito in modo totalmente. Non sapevano cosa dire, la scienza non poteva dire nulla. Un altro fu quello di Valentino Bocuzzi, un bambino di San Mango sul Calore in provincia di Avellino, che nel dicembre sempre del 1943 fu ferito per errore da un colpo di fucile, ma il proiettile passò dal gluteo destro penetrando all'interno del fianco sinistro e non fu possibile operarlo. Oltretutto dalla ferita del fianco si era creata una gravissima infezione che lo stava praticamente portando alla cancrena, febbre altissima, non riuscivano a operarlo. E per guarire avrebbe dovuto sostenere molti interventi, ma il risultato era comunque incerto e la situazione era davvero grave. Uno zio del bambino, che era impiegato a Lucera, saputo della gravità del nipote, scrisse così, vi era il venerabile Fasani che faceva molti miracoli. La mamma del bimbo allora si fece spedire un'immagine del nostro santo e dopo la medicazione, pensate, l'applicò alla fasciatura recitando la preghiera. Ebbene, al mattino di quel giorno, nel togliere le fasce al figlio, l'infezione, che era gravissima e estesa, era completamente e inspiegabilmente scomparsa. Il bambino era guarito. E questi erano 2. Poi, in occasione della beatificazione, appunto era stata ormai definita, Il suo corpo fu nuovamente riesumato dal vecchio sepolcro in marmo per una nuova ricognizione e fu portato in processione per le vie della città ed essere poi deposto sotto l'altare maggiore della chiesa di San Francesco dove tuttora si trova. Anzi, in quello stesso anno la casetta dove era nato, di via Torretta, fu trasformata in piccolo oratorio e subito divenne meta di devoti pellegrini. Ma arriviamo ai nostri giorni. Siamo il 21 marzo 1985, il Papa San Giovanni Paolo II riconobbe il miracolo che aprì la strada alla canonizzazione. E cos'era? Ve lo dico in due parole. Una donna, Maria Stratagemma in Romano, che abitava a San Severo in provincia di Foggia, era affetta da stenosi cronica retto-sigmoidea. La prognosi era brutale, infausta, e la terapia purtroppo fu inefficace. La morte qui era certa. Questa donna però non si perse d'animo. Aveva in casa un quadro dell'allora beato Francesco Antonio Fasani, di cui era molto devota, e proprio nei giorni più dolorosi, più crudi della sua infermità, rese ancora più fervorosa, più fiduciosa la sua preghiera in questo santo. Ebbene, le stesse testimonia, in una notte dei primi di febbraio, siamo nel 1961, vide ai piedi del letto il Padre Maestro, cioè il nostro santo, e lei gli tese la mano, proprio in atto di supplica, perché la guarisse. Dopo questa cosa si addormentò. A risveglio, stranamente, incredula, non sentì alcun dolore, era stranissimo. Ebbene, nei giorni successivi furono ripetuti dai medici diversi esami e gli stessi increduli presero atto di questo miracolo. La guarigione era completa. E venne quindi canonizzato il 13 aprile 1986 nella Basilica di San Pietro e il Papa, Giovanni Paolo II, disse queste parole. Allora, naturalmente ho preso degli estratti dal suo discorso, però sono molto belli e ci fanno capire ancora meglio la bellissima figura di questo, e l'esempio di questo santo. Dice il Papa in quella domenica quando lo canonizzò. Nella liturgia dell'odierna domenica, che segue a breve distanza la Pasqua, risuona la breve domanda di Cristo risorto, indirizzata a Simon Pietro. La domanda sull'amore. Mi ami? Mi ami tu più di costoro? Non è facile per l'uomo questa domanda e non è facile la risposta, dice Giovanni Paolo II. Eppure si tratta di una domanda fondamentale. Dalla risposta dipende in definitiva il valore della vita umana. E di questo amore che ha dato prova esemplare il francescano conventuale Francesco Antonio Fasani, che oggi la Chiesa annovera ufficialmente nel numero dei Santi. Egli ha fatto dell'amore insegnatoci da Cristo il parametro fondamentale della sua esistenza. Con l'atto di canonizzazione orora compiuto, la Chiesa stessa, oggi, intende rendere testimonianza a frate Francesco Antonio Fasani, attestando che egli ha veramente e sinceramente risposto di sì a quella cruciale domanda del Signore. Una risposta che, prima ancora che dalle sue labbra, è venuta dalla sua vita, interamente dedicata a corrispondere, con eroica fedeltà, all'amore col quale Gesù lo aveva prevenuto dall'eternità. Un amore, dice il Papa, un amore quello di Gesù che non si arrestò davanti al sacrificio supremo della vita. Il nuovo santo ha dimostrato con la sua vita, come gli apostoli, che sempre bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, anche al prezzo di sofferenze, di umiliazioni che non gli mancarono, al di là della stima e dei consensi che la sua generosità seppe accattivarsi presso i contemporanei. La sua letizia, pertanto, come quella degli apostoli, era motivata dal fatto di soffrire e faticare per il Signore, quando non addirittura di essere oltraggiato per amore del suo nome. San Fasani ci si presenta in modo speciale come modello perfetto di sacerdote e pastore di anime. Vero amico del suo popolo, fu per tutti fratello, padre, maestro di vita, da tutti ricercato come consigliere illuminato e prudente, guida saggia e sicura nelle vie dello spirito, difensore e sostenitore coraggioso degli umili e dei poveri. Come religioso, dice il Papa, fu un vero ministro nel senso francescano, vale a dire il servo di tutti i frati, caritatevole e comprensivo, ma santamente esigente per l'osservanza della regola e particolarmente per la pratica della povertà, dando egli stesso inappuntabile esempio di regolare osservanza e di austerità di vita. In un'epoca caratterizzata da tanta insensibilità dei potenti nei confronti dei problemi sociali, e lo abbiamo visto, il nostro santo si prodigò con grande carità per l'elevazione spirituale e materiale del suo popolo. Le sue preferenze andavano verso i ceti più trascurati, più sfruttati, soprattutto verso gli umili lavoratori dei campi, verso i malati, i sofferenti, verso i carcerati. Non senza sfidare a volte l'ostilità di certi ambienti refrattari ai valori della fede cristiana. Fu un autentico ministro del sacramento della riconciliazione, un infaticabile apostolo del confessionale, nel quale sedeva per lunghe ore della giornata, accogliendo con infinita pazienza e grande benignità coloro che di ogni ceto e condizione venivano per cercare con cuore sincero il perdono di Dio. La gratitudine che i penitenti di Padre Fasani provarono allora nel segreto del confessionale si perpetua ora nella gioia che essi condividono con lui in cielo. Ascoltiamo dunque il suo insegnamento. Lo ascoltino in particolare le genti della nobile terra di Puglia, che ben può gloriarsi di questo suo figlio, nel quale essa ravvisa le migliori caratteristiche che hanno fatto grande il suo popolo. E conclude il Papa, un popolo laborioso e semplice, coraggioso e tenace, un popolo saldamente ancorato ai valori del Vangelo. Ebbene, l'anno dopo la canonizzazione, cioè il 25 maggio 1987, San Giovanni Paolo II si recò in pellegrinaggio in Puglia e volle andare a Lucera per venerare il corpo di San Francesco Antonio Fasani e rendere omaggio alla meravigliosa icona di Santa Maria, patrona di Lucera, venerata nella cattedrale della città.